alberi, poi non mi ricordo a che altro, comunque oggetti quotidiani, L'albero, cioè, l'acqua, il fuoco, che giusto. cioè, cose, appunto, elementi fondanti, diciamo, della realtà sensibile, diciamo, almeno che noi percepiamo anche, mi ricorda, tipo anche una cosa un po' quasi alchemica, il fuoco, l'acqua, non lo so. È interessante perché lei, il primo verso di quella poesia è il mio intero essere, un versetto oscuro. Il termine versetto, i traduttori inglesi non sanno mai come tradurre questa parola, perché il versetto nell'originale, oie, è il versetto coranico. E in inglese non c'è una parola, cioè dice verse, ma non c'è un. In italiano versetto funziona bene. Alcuni traduttori in italiano traducono come un canto. Ma la parola precisa lì è il versetto, come se fosse il versetto di una No, scrittura dell'uscita, sacra. certo. Ma è oscuro nel senso di oscuro di colore, oscuro di significato. Entrambi. Il Ok, quindi versetto ambiguo. oscuro, una scrittura oscura, incomprensibile, difficile da decifrare. E poi c'è questa apertura, ti unisco all'acqua, ti unisco al fuoco, ti unisco. E lì quello che traduco un unisco è un altro intraducibile, che non saprei come. In inglese sarebbe più interessante forse, è l'innesto, ti innesto in realtà. Però in italiano non suona ti innesto l'acqua, ti innesto il fuoco, però il termine innestare, Qual to è il graft in termine inglese, analogo in to inglese? graft. Io vi devo interrompere perché sono le 20:40, lui rischia di perdere il treno e di là c'è un tavolo da 10, noi si rischia di mangiare alle 11. Siamo messi un po' così, che la cosa è andata benemente fra per le 11. Grazie. Grazie, grazie. Oh, mi fa piacere. Però abbiamo Come va? un Bene, bene, tutto bene. Sono ritornato in Italia. Anche Enrico. Ah sì? Cagliari. Ah, ecco. Grazie. Te l'ho già scritto. Grazie a te. Tra l'altro ti volevo chiedere, ma come si, perché? Di traduzione in inglese io ne conosco tre, un paio non so che ore, una è proprio così e non male. Non ho idea, per esempio in francese, in tedesco, in italiano, in Germania, ci abbiamo una traduzione. Ci sono come traduzioni, non le conosco bene, conosco quelle francese molto bene. Non sono particolarmente guai, sono stati pubblicati da un italiano, non so cos'è francese, quindi sono, quindi lo preciso, ma non ci si riprova, c'è uno in spagnolo anche, ok, dai, rimaniamo così, e sono in inglese. Ok. No, ma poi sai ancora che devo fare così. Però sono piccole selezioni. Sì, sono selezioni minime. Ce n'era una in particolare con c'era una copertina blu. Forse la sera. Sì, esattamente. Che mi piaceva. È più una riscrittura in realtà. Sì, interpretativa, però funziona. Una mia amica persiana la pensava. Sì, ma ti volevo fare questa domanda. Grazie mille. Grazie. Ma era bella. Ma guarda le copertine del libro. Erano gli altri? No, troppo lungo, no. Sì, Beh, brava, bravo, è un bravo. Io sono della scuola della visione. Ciao cari, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Vabbè, grazie. Sei in giro per l'Italia, fai una gita tutti i giorni. Ho fatto, sì, domani a Napoli l'ultima. Non mi rivolgo da giugno per altre cose. Ma sì? Cosa fai? Questo è l'unico libro, il primo e ultimo libro, diciamo, che può avere una risonanza. Io mi occupo di cose medievali, di cose che in realtà realtà, per esempio, in inglese, a Fez è un gorillaio nelle traduzioni, si inventano di tutto. Cioè, dei finti traduttori di Affezzi sono in inglese, sì, gente che proprio ci mette poesie new ageone e c'è scritto Affezzi, sì, è terribile. C'è un Affezzi bellissimo fatto da un poeta irlandese da nessuno di Ram, si chiama Geoffrey Squires. Geoffrey Squires. Ok, buono. Tanto che irlandesi sull'occasione lascia pensare. C'è un po' da fare. Va bene. Sì, e quindi che cosa traduce? Vediamo, c'è un romanzo molto bello. Forse per di contemporanei, no? Questo è contemporaneo, molto contemporaneo. Ah, di Benti, questo è di Benti, una specie di Benti, sì. Ok. Molto, molto poetica, sulla botanica, sul medicinale, anche però è un giallo, una riflessione sulla vicenda, toccava il medico di vicenda, era molto molto particolare. Questo lo pare. Poi se per Inti potete farlo, se per Inti, fa una mistica della natura. E poi, no, ora è molto progetto di ricerca. Come va? Si sente il telefono? Sì. Direi che devi fare il cinema. Un'altra dimensione, un'altra. Mi fa un piacere, grazie per essere qui. Lo prenderò comunque. Salve. Io ce l'ho fatta. L'ho ordinato appena uscito, in preordine. In preordine, sì. Stavano poco anche in preordine. Come non te l'hanno mandato? Beh, l'hanno mandato un po', sì. Sì, te l'hanno mandato di solito. Poi il fatto che io sono molti colleghi iraniani che sono interessati alla protesta di Napoli. Ma certo, perché la prima volta che era con noi. Devo fare sia Italia che adesso lo mettiamo a Toronto, poi a Stanford. C'è una mia amica italiana che va molto fuori. Sì. E poi suona. Sì. Ma l'altro ieri era sabato sera. Masciadi, c'è ancora da Masciadi. Il nome è Sudare. La dire, sì. La conosci? No, la conosco. Sta... credo che ora si sia trasferito verso San Francisco. Che sta giù, no? Però se sei a Stanford, magari... c'è il testo di fronte. Sì. Non c'è troppo, io Sì. tiro il numero, dopo lo fa. Ora si diamo anche il nostro, però diciamo la lettura era lunga, o comunque era un po' di sensazione, ecco. Un periodo molto adolescente, infatti, perché io Rosario è sempre così, tutti i traduttori. Ah sì, che testi che hanno testi anche difficili da... Sì. Ma io sai che faccio il mio viaggio. Comunque, sì, secondo me Rosario sceglie giustamente i pezzi che certo, faccio il mio viaggio adesso. Ma il motivo è che è la poco critica, la chiamo la carica. Come no, come no. Io stavo in sensazione con lei. Solo, sì, solo che per lei l'erotismo è un po' diverso. Ma secondo me è un po'. Ma insomma... Ero a Oxford a... Lei si fidava le erbette, te lo dico io. Aveva trovato le erbette giuste lì, sì, per i boschi. Te lo dico io, lei. Qua c'aveva le emicranie con aura, padre. Sì. Mi sentiva queste cose che dicono forse emicranie con aura. Comunque colpisce sempre il De Garda e in questi tre punti di presentazione tutti gli autori l'hanno citato. Sì, il De Garda, super. Per noi è fondamentale. Steiner. Goethe, Steiner, Hildegard von Bingen, quando dice questa cosa meravigliosa che dice che le malattie crittogamiche sono il sudore della terra, è lì che tu capisci che quelli che vengono chiamati gli esseri che danno fastidio, quindi che non sono tanto diversi da noi, anche noi diamo fastidio, quindi noi più di tutti. Quello che